raccontarvi una storia che vi appassionerà e soprattutto che vi farà cambiare opinione in corsa. Questa è la classica storia nella quale viene ribadito il concetto che non c'è una demarcazione tra bene e male, eppure tutto parte in una maniera abbastanza nitida: da una parte c'è un cattivo e dall'altra ci sono le vittime. Bene, piano piano voi cambierete idea, o comunque vi farete un'idea, come dire, un po' più composita rispetto a quella iniziale. Sì, perché oggi raccontiamo la storia di un colpevole e non colpevole. È la storia di un uomo che è stato vittima di una persecuzione per avere incarnato valori diversi da quelli normali. È una storia di invidie, di cattiverie di paese. È una storia che comunque ognuno di noi in qualche modo, attraverso varie sfumature, ha sicuramente vissuto, anche se naturalmente mi auguro per tutti voi in maniera non così drammatica. E insomma, il nostro protagonista è un uomo che un giorno ha deciso che non avrebbe più subito ingiustizie, e questo l'ha fatto diventare il criminale che forse tutti volevano fosse. Il nome del nostro protagonista è Simone Pianetti. Una rabbia cupa s'era andata depositando nel fondo della sua anima, mentre tutte le sue imprese, le sue ambizioni, le sue aspirazioni venivano contraddette, oppugnate, annichilite, e il suo patrimonio spariva nell'opposizione dei suoi nemici. Il Pianetti non trovò un alleato, non trovò un amico. Da una parte lui, perseguitato, condotto alla rovina, dall'altra la società, una società desiderosa di colpirlo, ma non comprenderlo o difenderlo. Quello che avete appena sentito è un estratto dal libro Cronaca di una vendetta, scritto da Denis Pianetti, che è il pronipote di Simone. E durante la puntata sentiremo la voce di Denis, che abbiamo intervistato, ma andiamo con ordine. Il giorno del destino è il 13 luglio 1914. Siamo a Camerata Cornello, pochi chilometri a nord di Bergamo. Mattinata estiva come tante altre, alcuni colpi di fucile squarciano il silenzio della valle. Allora alcune auto dei carabinieri iniziano a risalirla, quella mulattiera che si inerpica attraverso il bosco, raggiungono il paese e gli agenti vanno di fretta nell'ultimo tratto, neanche che si proteggono dalla pioggia perché sta piovendo. Il gruppo raggiunge il sagrato della chiesa e lì trova un capannello di persone attorno a dei lenzuoli bianchi poggiati a terra. Sono dei lenzuoli che coprono i corpi senza vita del parroco Don Camillo Filippi, del messo comunale Giovanni Giupponi, e presto i carabinieri scopriranno altre 5 vittime, tutte uccise nell'arco della mattinata. La voce passa di bocca in bocca e anche il nome dell'assassino viene pronunciato. Eh sì, perché in un paesino come quello tutti conoscono tutti, tutti sanno che a commettere qui gli omicidi è stato il Pianetti. All'anagrafe Simone Pianetti. Quella di Simone Pianetti è quindi la storia di un assassino, ma se fosse solo quello non staremmo qui a raccontarvela. È una storia che racchiude altro, e c'è un po' tutto un mondo di invidie, di odio. Eh sì, perché l'odio alla fine è un sentimento relazionale come tanti altri, anche perché non si può odiare e basta, bisogna odiare qualcuno, e forse soprattutto al giorno d'oggi oggi più persone ti odiano e più vuol dire che qualcosa nella vita hai combinato. Insomma, la domanda però è questa: perché Simone Pianetti era così odiato, e quindi perché Simone Pianetti odiava così tanto quelle persone? Bisogna tornare un po' indietro all'origine di tutto, alla famiglia di Simone, i Pianetti, che vivono da generazioni a Lavaggi, che è un piccolo abitato ai piedi del massiccio del Cancervo. Siamo nelle valli bergamasche, famiglia benestante, proprietaria di terreni, di caseggiati, quindi non una cosa comune, insomma siamo in un paese di montagna a cavallo tra il 700 e l'800. Simone nasce il 7 febbraio del 1858, è il terzo di 5 figli. Lavaggi è una piccola contrada, una manciata di case poco lontano da Camerata Cornello, che è diciamo il paese di riferimento, con tanto di scuola e di chiesa, e lì ci sono solo sentieri di montagna. E peraltro non è che Camerata Cornello sia una metropoli, è poco più grande di Lavaggi. Sono terre di pascoli e di mandriani, gente semplice e laboriosa, saggia e riservata, quasi scontrosa. Dominato dalle creste e dai dirupi di queste montagne, si stende al di sotto un pacifico paesaggio, disseminato di antichi borghi e di minuscole contrade. Ai tempi di Simone Pianetti, da un estremo all'altro della grande montagna, si viaggiava a piedi o a dorso di mulo, lungo un fitto reticolo di sentieri e di mulattiere. La vita era molto dura, soprattutto d'inverno, quando la neve poteva raggiungere anche il metro di altezza. Simone, un ragazzone alto, biondo, con gli occhi azzurri, di buona famiglia, un donnaiolo appassionato di caccia, però è anche uno solitario, col carattere difficile, un orgoglioso testardo, uno di quelli che vogliono avere sempre ragione. Insomma, molti cominciano a prenderlo in antipatia. Lui è un ostinato, poi però ama fare la bella vita, alla fine va in contrasto già anche con il padre, e nel 1882 lui lascia il piccolo mondo delle valli bergamasche e si imbarca per l'America, ce lo spiega Denis Pianetti. La famiglia di Simone Pianetti era benestante, quindi il padre non riteneva necessario che il figlio emigrasse all'estero, come invece era comune fare tra i maschi dell'epoca. Simone desiderava invece lasciare la valle, una valle che a fine Ottocento non dava buone opportunità di lavoro, quindi era un po' questo sogno di Simone Pianetti di andare oltreoceano per vedere come fosse vivere in una città. 8.000 lire in tasca, questi sono i soldi che Simone si porta dietro, non sono pochi per l'epoca. Va a vivere a New York, poi a Pittsburgh in Pennsylvania, starà negli Stati Uniti per diversi anni. Non è ben chiaro a fare cosa. C'è un libro scritto da un certo Henry Ashton Wolfe, amico di Conan Doyle, che descrive un Pianetti romantico, un americano impegnato in una feroce battaglia con la mano nera, la prima mafia, la mafia newyorkese. Ma probabilmente questo è un racconto molto romanzato, probabilmente lo scrittore non aveva neanche veramente conosciuto Pianetti. Insomma, l'unica cosa certa è che dopo una decina d'anni Simone chiede al padre dei soldi per poter rimpatriare. Insomma, ha esaurito il suo gruzzoletto, in qualche modo ha fallito, non può far altro che tornare indietro. Quando Simone torna dagli Stati Uniti a 34 anni, un anno dopo, sposa Carlotta Marini, siamo nel 1893, questa ragazza gli darà 8 figli, una ragazza di buona famiglia lei. E quindi diciamo che con il passare degli anni il brutto carattere di Simone sembra smussarsi un po'. L'esperienza americana forse non è stata inutile, è cresciuto, è stato a contatto con idee diverse, più moderne, va a vivere con la moglie a Camerata Cornello, riadatta al piano terra a trattoria, dedicando uno spazio alla vendita di generi alimentari. Insomma, fa il piccolo imprenditore, mette in affitto delle camere per la notte, sembra che tutto sia andato al suo posto, o comunque stia andando nella direzione giusta. Non è così, perché Pianetti ha motivi di discussione con tutti. Per esempio, c'è un problema che riguarda la costruzione di una fontana. Lui la fa in accordo col paese, poi non gli viene pagata dalla comunità, che però la utilizza. Insomma, la verità è che la gente continua a trattare Simone con distacco, con freddezza, soprattutto da quando è tornato. Lui ha questo senso di giustizia ostinato, non accetta compromessi, spesso finisce col litigare, perché lui non è uno che si fa mettere i piedi in testa da nessuno. A cavallo tra 800 e 900, la situazione sociale, economica e culturale iniziò a mutare sensibilmente. La valle venne scossa da cambiamenti epocali che investirono una realtà praticamente immobile da secoli. L'arrivo del treno, le grandi opere idroelettriche e le nuove industrie, così come il proliferare di iniziative economiche e sociali, contribuirono a farla uscire da un grave stato di isolamento e arretratezza. I cambiamenti riguardano anche la politica. Per anni era stato in vigore il non expedit pontificio, cioè la proibizione ai cattolici di andare a votare, e adesso questa indicazione ferma della Chiesa comincia a rientrare, non se ne parla quasi più, la politica comincia a affacciarsi nei paesi della valle, che prima erano stati dominati dal potere dell'autorità ecclesiastica. È il primo segno di libertà, vuol dire anche scontri violenti, la fiaccola della l'anarchia, insomma, comincia a soffiare in tutta Europa, in tutto il mondo. Poi c'è il progresso, che deve fare i conti con i più conservatori, e Simone è un progressista, diciamo così, è stato in America, ha voglia di cambiamento, ha voglia di seguire i tempi, addirittura adibisce il locale, un locale della sua locanda, a sala da ballo. La cosa inizialmente funziona, ma finisce per attirare le attenzioni di Don Camillo Filippi, che è il parroco. Pianetti viene bersagliato dal parroco, dalle autorità, viene accusato di favorire atti contrari al buon costume, di mettere a rischio la purezza delle donne, e il parroco arringa la gente dal pulpito, i giornali favorevoli al clero fanno il resto, e così comincia a crearsi questo clima di ostracismo. I compaesani di Pianetti gli tolgono il saluto, comincia a circolare la calunnia nei suoi confronti, la valle sta cambiando, e per i più conservatori Pianetti è quello giusto con cui prendersela. Ecco un estratto del giornale Bergamo Oggi che ricostruisce l'accaduto in un articolo del 13 luglio 1984. Si interessarono alla questione anche alcuni notabili della valle. E fu così che un bel giorno Simone Pianetti si vide recapitare un accertamento delle tasse di tale portata da rivelarsi un vero e proprio colpo di grazia per la sua attività. Non c'è dato di conoscere l'entità della somma che gli fu ingiunto di pagare, ma le testimonianze del tempo parlano di una cifra ben più alta di quanto non giustificassero gli affari dell'albergo. A nulla giovarono le proteste dell'albergatore, che dovette pagare, e infine, amareggiato da quella che riteneva una congiura, si decise a vendere il locale per un prezzo di molto inferiore al suo reale valore. Eh sì, Pianetti avrà anche un brutto carattere, sarà una persona scomoda, però qui si parla di persone che costringono un uomo a chiudere la sua attività, si parla di una reputazione distrutta, cioè qualcosa di terribile, e si tratta di una congiura vera e propria per mandarlo via da Camerata Cornello, e alla fine questa congiura riesce. Nell'autunno del 1909 lui lascia il paese con la sua famiglia, è un momento chiave della nostra storia, perché quel giorno succede qualcosa di ancora più infame, e quando Pianetti se ne va, tutto il paese è per strada a guardarlo e nessuno gli rivolge la parola. Sono evidenti gesti di disprezzo nei suoi confronti, qualcosa di veramente terribile. È l'affronto più grave, poi l'umiliazione pubblica, peraltro per colpe inesistenti. Lui è un uomo distrutto, non ha idea di come fare a provvedere al sostentamento della moglie e dei figli, e comincia a bere, a sfogare la sua rabbia bevendo, diventa quindi ancora più taciturno, ancora più propenso a scatti d'ira. Ma Pianetti è un uomo forte, un uomo dalle mille risorse. Dopo aver passato qualche tempo in sistemazioni di fortuna, trova un'occasione unica, e così riesce a risolvere sia il problema dell'alloggio che quello del lavoro. Prende in gestione un mulino a San Giovanni Bianco sul fiume Brembo, e purtroppo siamo molto vicini a Camerata Cornello, e lì Pianetti ricava un alloggio al piano superiore per sé, per la moglie, per i figli. Al pian terreno sistema le mole, i setaci, peraltro adibisce anche un locale a negozio per la vendita della farina. Il mulino di Pianetti è particolare, è avveniristico, è unico nel suo genere, almeno nella vallata, perché lo fa funzionare con l'energia elettrica, e l'innovativo sistema di macinazione riduce fino alla metà i tempi di lavorazione della farina rispetto ai tradizionali mulini a acqua. Ancora una volta, insomma, Simone dimostra il suo ingegno e la sua predisposizione al progresso, e anche questa volta lui investe tutti i soldi che ha, perché per lui è un modo di ricominciare, è un modo di lasciarsi tutto alle spalle. Per un bel po' di tempo le cose gli andarono abbastanza bene, e nonostante gli anni gli avessero peggiorato un tantino quel suo carattere già non facilissimo, riuscì comunque a circondarsi di amicizie. Era ormai sui 50, ma la caccia costituiva ancora una grande passione. A volte gli capitava di trascurare gli affari per inseguire le prede su quelle montagne di cui conosceva alla perfezione ogni piccolo anfratto. Era sempre agile e forte. Il biondo dei suoi capelli s'era fatto un po' più opaco, ma lo sguardo acuto d'aquila, di chi sa mirare giusto, gli era rimasto pressoché inalterato. questa è la descrizione che Annibale Mattavelli fa di pianeti nel suo libro La farina del diavolo. Fate attenzione a questo titolo perché è molto importante, perché poco tempo dopo l'apertura del mulino arriva un altro momento terribile per la vita di pianeti, perché qualcuno decisamente spregevole mette in giro la voce che le farine macinate da quella macchina così moderna siano nocive alla salute. Si parla addirittura di pellagra, che era una malattia terribile che portava alla demenza in quei tempi. Superstizioni alimentate dai nemici di pianeti, perché nessuno tra i suoi nemici ha intenzione di lasciarlo in pace. Siamo a pochi chilometri da Camerata Cornello, l'abbiamo detto. Insomma, la gente comincia a chiamare la farina prodotta da pianeti la farina del diavolo. Ovviamente la popolazione non poteva prendere una via opposta a quella che diceva il parroco o l'autorità, quindi sicuramente c'era chi frequentava la locanda, chi frequentava il mulino elettrico di Simone Pianetti, però per non oltreggiare le direttive delle autorità e del parroco, alla fine si trovarono col dover boicottare le sue attività, proprio per non passare per quelli che stavano dalla parte di Pianetti. Vedete come piano piano quello che vi avevo detto all'inizio si sta verificando, cioè tutti ci stiamo arrabbiando per i soprusi subiti da Pianetti, e nel giro di pochi mesi viene distrutto ancora una volta da maldicenze, da pregiudizi come uomo e come imprenditore. È schiacciato dai debiti. Nel frattempo il figlio Aristide, che ha 14 anni, si ammala. Il dottore del paese parla di un mal di pancia, e però questo dolore dura a lungo, e allora si va da un altro medico e si scopre che è un'appendicite in stato avanzato, quindi una diagnosi sbagliata. Il ragazzino viene ricoverato d'urgenza, la lunga degenza pesa parecchio sulle finanze della famiglia, e Pianetti in pochi anni ha perso un capitale di quasi 80.000 lire, una cifra enorme per quei tempi. È la frustrazione dovuta ai fallimenti, la disperazione di un uomo ridotto sul lastrico, la condanna di una comunità, le ripetute ingiustizie subite hanno dato vita a un mix terribile. La via del non ritorno ormai è imboccata, nessuno se n'è ancora accorto. Insomma, stiamo per tornare a quel 13 luglio 1914, il giorno della strage, ma c'è ancora molto da dire su Simone Pianetti. Questa vicenda ha dei risvolti inaspettati. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Simone Pianetti, quindi è la storia di un uomo perseguitato. In realtà non è solo quello, ma come vi ho detto all'inizio, è così difficile tracciare linee di demarcazione tra il male e il bene, soprattutto è difficile in questo caso, perché è una storia che sta per sfociare in tragedia. Simone Pianetti è un uomo con un carattere difficile, uno ribelle, uno orgoglioso, è andato negli Stati Uniti, ma è tornato a casa senza avere sfondato, diciamo così, però ha sempre avuto grandi idee, ha sempre cercato il suo posto nel mondo, e tutte le volte è stato bersaglio di spietati giudizi, di odio, di discriminazioni da parte della piccola comunità nella quale lui viveva. Per conformismo, per scelta, per antipatia, insomma le sue attività sono sempre state boicottate, lo hanno portato alla bancarotta e alla disperazione. Pianetti ha subito tanto, ha subito troppo, insomma qualcosa sta per esplodere. E arriviamo a quel lunedì 13 luglio 1914 a San Giovanni Bianco, una mattina particolarmente umida, un temporale ha colpito la zona per tutta la notte, si è calmato solo alle prime luci dell'alba. Pianetti si è svegliato presto, 5:30 del mattino, ha fatto colazione, ha salutato moglie e figli che sono ancora a letto, e è uscito di casa. Lo fa spesso, di solito va a passeggiare nei boschi, questa volta è diverso. È successo qualcosa, il detonatore è un episodio preciso, perché il medico del paese, Domenico Morali, lo stesso medico che aveva sbagliato a fare la diagnosi al figlio, quindi che aveva contribuito alla rovina di Pianetti, Pianetti, quest'uomo passa davanti a casa di Pianetti in bicicletta e sputa per terra. Forse è una casualità, Pianetti però lo interpreta come l'ennesimo gesto di disprezzo nei suoi confronti e questa volta la rabbia scoppia incontrollata. Al tempo si usava masticare il tabacco, quindi probabilmente masticando il tabacco era anche, si era soliti anche sputarlo poi. Probabilmente Pianetti era fuori dalla porta o come alcuni dicono era alla finestra, l'ha visto e ovviamente qua è scattata la scintilla. In quelle giornate aveva accumulato tanto odio, molta rabbia, anche perché proprio il giorno prima gli era arrivata una richiesta di lasciare appunto l'appartamento del mulino elettrico perché ovviamente non riusciva più a pagare l'affitto. Pianetti rientra in casa, prende il fucile, prende diverse munizioni e un foglietto di carta. È una lista, una lunga lista di nomi che sta preparando da tempo, almeno 40. Va alla ricerca delle prime persone segnate in quell'elenco, ma non le trova e parte questa lotteria per la sopravvivenza. Si apposta lungo un sentiero in attesa che passi il dottor Morali, del quale conosce le abitudini. Sono le 9:30 del mattino. Il boato di due fucilate rimbomba nella valle. Il dottore è morto sul colpo. E Pianetti va verso il municipio, dove spara a bruciapelo al segretario Abramo Giudici e alla figlia Valeria di 27 anni. Poi raggiunge la casa del giudice conciliatore Giovanni Ghilardi. Gli spara un colpo in testa. E poi si dirige in chiesa, va verso la chiesa, trova il parroco Don Camillo Filippi sul sagrato, è impegnato in una discussione con il messo comunale Giovanni Giupponi. Pianetti accenna un lieve inchino e dice con voce calma: «La riverisco, signor parroco, lei sa che cosa mi ha fatto?» Non aspetta risposta, spara e uccide Don Camillo e colpisce alla schiena anche Giupponi, che cercava di mettersi in salvo. E poi c'è l'ultima vittima di Pianetti, Caterina Milesi, detta Nella, una donna che gli ha negato un debito e che lui pensa, probabilmente ha ragione, che abbia sparlato di lui. E Pianetti la uccide in casa di fronte al nipotino di 9 anni, che risparmia, così come aveva risparmiato anche i parenti del giudice conciliatore, perché non sta ammazzando a caso Pianetti, sta ammazzando le persone che gli hanno fatto del male. Oh, oh, me. Insomma, Pianetti il 13 luglio 1914 da vittima diventa carnefice, alla fine si trasforma nel mostro che la comunità voleva che fosse. L'ultimo degli omicidi avviene intorno alle 12:30. Cade una pioggia incessante dal cielo, le voci si rincorrono confuse, non si capisce bene chi sia morto, quante siano le vittime. L'unica cosa certa è che il colpevole è lui. E allora arrivano i giornalisti, arrivano i curiosi che assediano i luoghi della tragedia. E il prefetto di Bergamo Molinari e il commissario Bartolozzi si insediano nel municipio di Camerata Cornello e vogliono dirigere personalmente le ricerche. Vengono mobilitati 60 carabinieri, decine di guardie di pubblica sicurezza. Oggi si direbbe una caccia all'uomo. Pochi giorni dopo arrivano i soldati del 78esimo reggimento di fanteria, per un totale di circa 300 uomini. Militari vengono messi a guardia delle abitazioni, dei possibili altri obiettivi di Pianetti, e la maggior parte vengono impegnati nel pattugliamento delle montagne e dei passi alpini. Il prefetto mette addirittura una taglia di 5.000 lire su Pianetti, vivo o morto. Voi immaginate questa persona con l'impeto e anche il desiderio comunque di fuggire, di sopravvivere, che fugge sulle montagne, si nasconde in anfratti, in grotte, nelle baite dei mandriani, cerca comunque di sopravvivere rubando possibilmente il cibo nelle baite, bere il vino, piuttosto se non c'era niente si mangiava lumache, quello del coniglio, quello che trovava proprio lungo suo cammino. A questo punto la nostra storia prende una piega inaspettata, perché fino adesso vi abbiamo parlato di una comunità compatta che ha fatto di Pianetti un mostro prima che lo diventasse per davvero. Però dopo questi omicidi emerge un'altra comunità, una non dico maggioranza, ma insomma un magma silenzioso, persone che fino a quel momento non avevano preso posizione. Agli occhi di molti, insomma, Simone Pianetti è un vendicatore, è un uomo che si è fatto giustizia da sé dopo essere stato vittima di una lunga, di una accanita persecuzione. E insomma, cominciano a esserci persone che, senza proprio dirlo, ma pensano che lui ha fatto bene a fare quello che ha fatto. Le autorità capiscono che Pianetti probabilmente è aiutato da Mandriani, da Carbonai, che lo hanno accolto, che lo hanno protetto, che lo hanno sfamato. Con il passare dei giorni appaiono le prime scritte sui muri: viva il Pianetti, uno in ogni paese. E così la strage di Camerata Cornello e di San Giovanni Bianco rientra in un dibattito che comincia ad andare oltre la storia di Pianetti. La morte di Don Camillo, per esempio, si ricollega a una questione molto sentita nella valle: l'acceso scontro tra i clericali e gli anticlericali. In Italia siamo nel vivo della delicata questione romana, quella tra la Santa Sede e il giovanissimo regno italiano, quella che solo i patti laterali si risolveranno molti anni dopo. Insomma, il caso di Pianetti, che di per sé non avrebbe nulla di politico, diventa un caso politico. Insomma, lui è un perseguitato vendicatore o un folle assassino? Chi è Pianetti? È un liberale? Un anarchico? Chi è? Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. La terribile storia di Simone Pianetti, il perseguitato, il vendicatore, il folle, sta arrivando al suo epilogo. Il commissario Bartolozzi decide di rivolgersi alla famiglia dell'assassino. Nino, il primogenito di Simone, accetta di collaborare. E così il 29 luglio Nino, accompagnato da Giuseppe Todeschini, che era un ex compagno di caccia di Pianetti, si addentra nei boschi e raggiunge a piedi la baita di Pegarolo. Lì lui deve incontrare il padre Simone e vuole convincerlo a costituirsi. Per ordine del prefetto ai carabinieri è stato fatto divieto di seguire i due uomini, vogliono evitare altri spargimenti di sangue. E fanno bene, perché Pianetti si fa trovare con il fucile in mano. Poi riconosce il figlio, capisce che non ci sono militari, cambia atteggiamento, corre incontro a Nino, lo abbraccia singhiozzando. Simone è un uomo irriconoscibile, i baffi di un tempo, quei baffi curati, hanno lasciato il posto a una barba arruffata, al viso scavato, gli occhi rossi, i capelli bianchi, dorme poco, male, insomma è un uomo prostrato. I tre parlano a lungo, Nino e Giuseppe cercano di convincere Simone a costituirsi, ma lui, che pure mostra di pentirsi almeno di alcuni degli omicidi commessi, lui ricorda le persecuzioni che ha dovuto subire, insomma non molla, non si lascia convincere, scrive delle lettere che consegna al figlio e si congeda da lui dicendogli: dite ai carabinieri che io resisterò fino all'ultima cartuccia e quella servirà per me, perché so cosa mi aspetta. Molto probabilmente fra i 300 soldati e carabinieri che sono stati mandati sulla montagna, molti erano inesperti, nel senso che non conoscevano la montagna. Infatti avevano richiamato soldati dall'Emilia Romagna, dal Veneto, da gente che magari non era abituata alle montagne impervie quali sono le nostre. Quindi si erano trovati anche in difficoltà. Le montagne non sono facili da perlustrare, eh sì, forse gli uomini non erano quelli giusti, fatto sta che Simone Pianetti non verrà mai più ritrovato. Il 24 maggio 1915 si tiene il processo, ma la notizia passa in sordina, perché il 24 maggio 1915 l'Italia entra in guerra e il 25 maggio, cioè il giorno dopo, viene emessa la sentenza e il tribunale giudica Pianetti colpevole e lo condanna in contumacia all'ergastolo. La storia di Simone Pianetti quindi non ha una conclusione, tutto rimane in sospeso, c'è un condannato fantasma, sul finire degli anni 50 si rimette mano al processo con l'obiettivo di archiviarlo, ma senza successo, la condanna non diventerà mai definitiva, l'ordine di cattura teoricamente è tuttora in vigore. Insomma, Simone Pianetti per la legge italiana risulta ancora oggi un latitante, anche se avrebbe 160 anni. Ci sono due ipotesi sulla sua fine, quella più accreditata dalla famiglia è quella del suicidio, che sarebbe avvenuto durante un inseguimento in alta montagna. La tradizione vuole invece che sia riuscito a fuggire nascosto su un carro di legna, ottenere dei documenti falsi in città per poi imbarcarsi per l'America. Da qua tutti i dubbi, gli interrogativi, le varie dicerie. Ci sono molte persone che sostengono di aver visto un via vai nei giorni successivi alla strage presso la casa di Simone Pianetti, la famiglia era sotto controllo. Dicono che la famiglia nel corso degli anni riceveva delle lettere dall'estero, tutte ipotesi, non si è mai saputo in realtà quale fine abbia fatto Simone Pianetti. La storia di Simone Pianetti, la storia di un perseguitato, di un oppresso, ma anche di un assassino, di un vendicatore. Alexandre Dumas nel Conte di Montecristo diceva che mescolando odio, collera e vendetta si ottiene una bevanda amara, è proprio quello che è successo a lui, e la vendetta non è giustizia. Però se le colpe di Pianetti sono terribili, è vero che la tragedia di quel 13 luglio 1914 ha più di un colpevole, perché bisogna parlare anche di quella comunità, della cattiveria di quella comunità che aveva attaccato Pianetti, che aveva fomentato il suo odio, e questo è qualcosa che ahimè succede ancora oggi. Nel 2014 intanto Denis Pianetti, il pronipote di Pasquale Pianetti, il fratello di Simone, ha scritto un libro sulle vicende legate al suo antenato, Cronaca di una vendetta, ha raccolto documenti, testimonianze che ricostruiscono una storia anche emblematica per quanto riguarda l'ambiente e il periodo storico, e forse questo libro ci può aver aiutato a capire meglio questa storia così controversa, così straordinaria e terribile. Simone Pianetti, un uomo che voleva volare alto ma che è stato portato nell'abisso dai colpi d'ala dettati dal suo dolore, dal suo rancore, dal suo senso di giustizia disattesa. La sua figura rimane in bilico tra l'eroe e il brutale assassino, ha segnato l'immaginario popolare, è rimasto citato in ballate, canzoni popolari, spettacoli di Burattini, i cantastori hanno narrato, amplificato e distorto le sue gesta. Chiaramente va condannato il gesto che lo ha reso famoso, ma non è così facile giudicare la persona. La cattiveria può generare cose terribili, l'odio porta odio. Se volete mandare dei commenti, visitate la nostra pagina, cercateci sui miei, sui nostri social, sul Falco il Gabbiano, @radio24.it, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.